Storiacce di Raffaella Calandra. Alle 16.45 del 6 di dicembre, Di Pietro che si toglie la toga per rimettersi la cravatta, tra virgolette, civile, è un momento che, ecco, personalmente ci dà una certa emozione, quasi il gesto simbolico di una persona che lascia la magistratura. Il primo e più famoso caso resta senza dubbio questo, l'abbandono della toga davanti alle telecamere di Antonio Di Pietro, il simbolo di Mani Pulite, lasciava la magistratura per diventare poco dopo un politico. Ma i casi di passaggi dalle aule e dei palazzi di giustizia agli scranni del Parlamento sono nel tempo aumentati in tutti gli schieramenti. E ora per la prima volta c'è pure il caso di un ex pubblico ministero in corsa per la guida di un partito, mentre fioccano quelli di magistrati diventati sindaci delle città in cui hanno indagato. Magistrati che vanno, ma anche magistrati che poi tornano, cioè ad indossare la toga dopo un impegno politico. E a voi? Se dovesse capitare di essere indagati oppure di essere giudicati da qualcuno con simpatie politiche casomai diverse dalle vostre, questo vi preoccuperebbe? Perché alla fine questo è il nocciolo della questione e da qui allora partiamo in questa puntata di Storiacce. Eugenio Albamonte, neo presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati. A Ivrea le commemorazioni per la scomparsa di Gian Roberto Casaleggio, ci sono state polemiche per la partecipazione di almeno un magistrato che sentiremo tra poco, ma lei ci sarebbe andato? Non so. Sicuramente la partecipazione di un magistrato ad un incontro di questo tipo, che è evidentemente di tematiche generali, in cui viene richiesta, immagino, la partecipazione del magistrato proprio per le sue competenze specifiche sui temi della giustizia, ancorché organizzato da un movimento politico, non sia in sé una cosa inopportuna o una cosa da evitare. Poi è rimesso alla sensibilità di ciascuno partecipare o meno. Lei ci sarebbe andato? Non lo so, può darsi di sì. Certo, io poi ho un ruolo particolare perché sono presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, quindi noi abbiamo interesse e anche piacere che l'associazione sia rappresentata ovunque. Lui è il presidente della ANM, cioè il sindacato delle toghe, e quindi di sicuro ha un ruolo diverso, diciamo così, istituzionale, e quindi per un certo periodo non più operativo sulle inchieste. Ma per chi invece ogni giorno indaga sulle persone e deve prendere decisioni su notizie di reato, anche apparire al di sopra di tutte le parti, oltre che esserlo, non è secondo voi importante? Dall'altra parte, il dibattito sulla giustizia necessariamente chiama in causa gli operatori e quindi i magistrati. Perché non dovrebbero parlare anche i contesti con orientamento politico chiaro? E questo è ciò che ha portato Sebastiano Ardita, procuratore aggiunto di Messina, a raccogliere l'invito ed essere ad Ivrea alla commemorazione di Casaleggio. Per un magistrato che si occupa di questa questione e che ha affrontato anche tante volte gli aspetti organizzativi e funzionali del nostro lavoro, è un'occasione importante perché evidentemente in quella sede si possono affrontare temi importanti. Lei non ha avuto dubbi nel raccogliere questo invito, oppure si è posto il tema di partecipare ad un dibattito da una chiara comunque connotazione politica? Non mi sono posto nessun problema perché non avevo nessun rapporto di conoscenza pregresso, quindi mi fa piacere essere presente, come lo sono stati tanti altri colleghi in circostanze analoghe, nel senso che molti altri hanno partecipato anche a feste di partito. Questa è un'occasione tutto sommato laica rispetto alla realtà prettamente politica, anche se la persona che viene commemorata ha avuto un ruolo nella nascita di un movimento che fa politica. Lei ha anche di recente appena pubblicato con l'ex presidente della ANM Piercamillo Davigo un libro, ci torniamo anche su questo titolo un po' provocatorio, Giustizialisti, edito dal quotidiano Il Fatto, quotidiano che diciamo è notoriamente vicino al movimento grillino. 2 più 2 non fa 4 secondo lei? Io non so se il quotidiano è vicino al movimento grillino, so che il suo direttore, che si occupa di questioni di giustizia con un'ottica abbastanza realista, non ha mai aderito a nessun partito politico, anzi a noi queste cose non interessano le questioni che riguardano la giustizia, e tutto sommato nella giustizia si possono trovare tanti punti su cui ragionare, che prescindono dalle scelte politiche, dagli obiettivi dei partiti, ma che riguardano per esempio il fatto che i cittadini possono avere soddisfazione quando vedono lesi i propri diritti e si rivolgono a un giudice. Una soddisfazione garantita allo stesso modo se il pubblico ministero o il giudice che ci troviamo di fronte ha avuto una militanza politica attiva, casomai di orientamento diverso dal nostro? Il punto più difficile è proprio questo, quello delle cosiddette porte girevoli, toghe che diventano politici e poi casomai di nuovo toghe. E quante volte proprio la notorietà di un'inchiesta ha portato consensi elettorali poi ad un magistrato, mentre si discute di una norma che mette nuovi paletti a questi passaggi, l'attenzione è tutta soprattutto sul caso di Michele Emiliano, ex PM di Bari, ex sindaco di Bari, poi governatore della Puglia e in corsa per la segreteria del Partito Democratico, oltre che sotto procedimento davanti al CSM per essersi iscritta ad un partito quando ancora indossava la toga. E su questo le norme mancano, nota il neo presidente dell'ANM Eugenio Albamonte, nel chiedere divieti più stringenti soprattutto per i sindaci. Il tema di Emiliano è quello casomai di essersi iscritto a un partito politico, non di aver svolto attività politica. Questa distinzione in realtà riposa sulla Costituzione. Nel dibattito dei costituenti è stato approfondito questo tema e mi sembra che ci sia addirittura un intervento di Aldo Moro che fa riferimento proprio a questo passaggio, in cui dice è opportuno che i magistrati non si iscrivano ai partiti perché all'interno dei partiti c'è una gerarchia. Altra cosa è partecipare alla vita politica come deputato, perché? Perché il deputato, anche rispetto al partito che l'ha candidato, non ha vincolo di mandato. Attualmente la norma stabilisce un limite soltanto per l'iscrizione ai partiti? Attualmente la norma prevede soltanto un limite per l'iscrizione ai partiti. Non ci sono norme che riguardano gli amministratori locali ed è bene che vengano inserite. Ci sono delle norme che disciplinano già l'accesso dei magistrati alle cariche elettive parlamentari e il ritorno in magistratura che secondo i magistrati sono troppo lasche e che vanno invece disciplinate in modo secondo me più rigoroso. Dunque sono gli stessi magistrati a chiedere più limiti per i passaggi dalle aule dei palazzi di giustizia agli scranni del Parlamento e poi lo stop a toghe che diventano sindaci, come fu Emiliano, come è stato Luigi De Magistris e molti altri ancora e come ora vorrebbe essere Franco Sebastio. Guarda tutta la città di Taranto, le numerose vittime, le numerose parti lese. Essere riusciti dopo tanti anni, dopo tanti processi, non dimentichiamoci dei numerosi processi che si sono già celebrati, essere riusciti a portare a dibattimento questa inchiesta di enormi dimensioni, per noi che ci abbiamo lavorato, è una soddisfazione. Lui è stato il procuratore del maxi processo all'Ilva di Taranto. E dove si candida ora, secondo voi? Proprio per la città di Taranto. Certo, ora è andato in pensione, di sicuro la sua notorietà deriva proprio da quella inchiesta. Ma pensate, al momento la legge consentirebbe ai magistrati anche di essere contemporaneamente PM e sindaci di una città, purché in un comune differente. E questo non va bene, dice chiaro e tondo il numero uno dell'Associazione Nazionale Magistrati, Eugenio Albamonte. Si è candidato a sindaco di Taranto il PM che ha indagato sull'Ilva e chiaramente è stata l'inchiesta più importante non solo per la città di Taranto ma direi un'inchiesta importante per l'intero paese. Lei che cosa ne pensa di questa candidatura? La trova opportuna? Io in generale penso che sia sempre un po' inopportuno, diciamo così, che un magistrato si candidi nel luogo dove ha svolto la sua attività giurisdizionale e questo vale per Taranto ma per qualsiasi altro luogo, ancor più forse se ha svolto un'attività delicata su temi sensibili che hanno interessato la cittadinanza, ma non per altro, perché ex post si rischia che l'attività che ha svolto venga in qualche modo delegittimata e visto che noi di delegittimazioni infondate ne abbiamo ben troppe, dare occasione mi sembra veramente un fuor d'opera. Nel caso specifico però il collega è andato in pensione e quindi la scelta è solo di opportunità sua, perché non, allo Stato non c'è nessuna legge che vieta ai magistrati in pensione di candidarsi se, come, quando vogliono e dove vogliono. È anche vero che, diciamo, il suo nome è legato a quello dell'inchiesta e quindi anche la sua notorietà. In qualche modo a volte si utilizza, mi passi il termine, da parte anche delle formazioni politiche, dei partiti, la notorietà acquisita da alcuni magistrati anche per il loro lavoro, per far da traino anche poi nell'attività politica? Ma questa è una cosa ricorrente. Sembra che a volte il ceto politico, soprattutto quando è, come dire, in crisi di credibilità, utilizzi la credibilità recuperata da altri soggetti professionali, in questo caso i magistrati, sul territorio grazie al loro lavoro. E questo poi diventa un cane che si morde la coda, perché il gruppo politico è in difficoltà per recuperare consensi candida al magistrato, salvo il fatto che poi la candidatura del magistrato determina una delegittimazione invece dell'attività di magistrato. Secondo me questo è un circuito che andrebbe interrotto. Ecco, lei parlava poco fa della inopportunità di candidarsi nei luoghi dove si è svolta l'attività di magistrato. Abbiamo citato, anche se è un caso appunto di un magistrato che è andato in pensione, la vicenda dell'ex procuratore Sebastio, candidato ora a Taranto, però all'epoca anche Michele Emiliano, da magistrato di Bari, si candidò e corse per la sua città, di cui divenne sindaco. I ragionamenti sono sempre generali e quindi riguardano tutti i casi analoghi. Di Pietro, Violante, Casson, Ferranti, Nitto Palma e poi ancora Finocchiaro, D'Ambrosio, Ferri, Lo Moro. Quanti sono i magistrati in Parlamento e quanti alla guida dei nostri comuni? E da qui ripartiamo nella seconda parte di Storiacce. Per il tuo vino scegli il meglio. Colombin, tappi in sughero, fidati di un esperto. Vi presenta Storiacce. Che il giudice che a Taranto ha svolto, insomma, indagini con un impatto molto forte questi ultimi anni sulla drammatica vicenda dell'Ilva si candidi lì, secondo lei corretto, normale oppure problema? In tutta sincerità non mi pare che sia andato in pensione, quindi sì. Non è neanche più magistrato. Il fatto che lui si candidi è un suo diritto. Questa idea che i magistrati si debbano candidare, diciamo, in un posto dove nessuno li conosce, no, è singolare. Ma non in un posto in cui persona, non in un posto, lo sa che ci sono ragioni istituzionali, no, sulla coincidenza tra vale distretto. Per tutte le categorie umane. Se lui si è comportato bene da magistrato e sente di aver fatto il suo dovere. E lui, Michele Emiliano, aveva fatto lo stesso percorso. Magistrato a Bari, poi sindaco della sua città, proprio come ora vorrebbe fare Franco Sebastio a Taranto. Per lui, per Emiliano, va tutto bene, come aveva detto a 24 Mattino tempo fa. Per altri magistrati, invece, come abbiamo sentito nella prima parte di Storiacce, è quantomeno inopportuno. È inopportuna, cioè, la candidatura di un magistrato alla guida della città su cui ha indagato, proprio come ora fa Franco Sebastio, il PM del caso Ilva a Taranto. Emiliano ora è sotto procedimento disciplinare al CSM per essersi iscritto ad un partito mentre era ancora magistrato e ora anche per la sua corsa alla guida del Partito Democratico. Un caso che non ha precedenti. Ex PM in lizza per la guida di un partito. In Parlamento si discute di una norma che chiuda di più le cosiddette porte girevoli tra tribunali e camere e i primi a volerla, a dire il vero, sono gli stessi magistrati, anche perché sono stati per questo ripetutamente attaccati. Ma dall'altra parte, perché tutti potrebbero essere eletti e i magistrati no? Un diritto che la Costituzione tutela, ricorda il presidente della ANM Eugenio Albamonte, che ha preso il posto di Piercamirlo Davigo, che su questo però era perentorio. Lui diceva no ai magistrati in politica. Oggi un magistrato potrebbe fare amministratore locale pur continuando addirittura a fare il magistrato, purché in un territorio diverso da quello che esercita la giurisdizione. Quindi ben vengano i paletti, diciamo così. Poi però tra i vari impegni politici si possono fare delle distinzioni. Ad esempio? Non credo che l'apporto che il magistrato possa dare nelle amministrazioni locali sia particolarmente collegato alla sua particolare professionalità. Un limite alla partecipazione alle amministrazioni locali, anche di tipo radicale, non lo vedrei come una cosa assurda. Possono essere deputati ma non sindaci. Anche perché lì si maneggia denaro, ci sono gli appalti, cioè è bene che il magistrato se ne tenga a distanza. La parte invece relativa all'impegno in Parlamento, ecco qui devo dire che storicamente i magistrati, ma non da soli, hanno dato un contributo importante nella storia di questo paese ai percorsi di formazione delle leggi. Poi ovviamente ci sono profili costituzionali. Non si può impedire ad un magistrato quello che è un diritto costituzionale, a quel diritto cioè anche ad essere eletto. Ecco Presidente, lei ha già detto su questo tema, si arriverebbe al paradosso che i magistrati non possono entrare in Parlamento dove invece siedono persone condannate per corruzione. Io quello che dico è porre i paletti per l'ingresso dei magistrati in Parlamento e poi quando sarà per uscire e stabilire bene che cosa possono e non possono fare quando escono è una cosa assolutamente opportuna. Se questi paletti sono talmente stretti che nessuno ci passa nel mezzo, beh allora il problema diventa serio. Scusatemi anche se sono un po' emozionato. Fino ad oggi abbiamo pensato che il nostro lavoro potesse servire a ridurre l'illegalità della società, nella società. Per questo abbiamo lavorato intensamente, convinti che la necessità di far osservare la legge nei confronti di tutti fosse generalmente condivisa. L'odierno decreto legge, a nostro giudizio, non consente più di affrontare efficacemente i delitti su cui abbiamo finora investigato. Persone raggiunte da schiaccianti prove in ordine a gravi fatti di corruzione non potranno essere associate al carcere neppure per evitare che continuino a delinquere. La voce, la riconoscerete probabilmente, è quella di Antonio Di Pietro. Dietro di lui, mentre leggeva questo comunicato, entrato ormai nella storia della cronaca giudiziaria italiana, c'era Piercamillo Davigo, Gherardo Colombo e Francesco Greco. Il pool di Mani Pulite contro il decreto Biondi, che nel 94 aboliva la custodia cautelare, cioè il carcere preventivo, limitandolo di fatto solo ai casi di omicidio o mafia e terrorismo. Furono poi le proteste di piazza e la minaccia di dimissioni anche dei PM del pool a spingere il Parlamento a non convertire in legge quel decreto. Poco dopo, però, il volto simbolo di quel pool, Antonio Di Pietro, si sarebbe tolto la toga per entrare in giacca e cravatta in Parlamento. Quello forse nella storia recente è stato il primo di una lunga serie di contrasti tra toghe e politici. Ci sono state fasi diverse, scontri più o meno forti, temi più o meno specifici, ma ce n'è uno che negli ultimi tempi si infiamma appena sui giornali finiscono conversazioni più o meno compromettenti di politici o personaggi pubblici, ed è il tema delle intercettazioni. A voi darebbe fastidio se le vostre conversazioni, anche private, finissero sui giornali? Ma forse direte, noi non abbiamo nulla da nascondere. Dall'altra parte, le intercettazioni sono un formidabile strumento di indagine. E forse tra una legge bavaglio per la stampa e la gogna per gli indagati esiste un compromesso? Cioè non è possibile, non è accettabile alcuna restrizione nell'uso processuale delle intercettazioni, perché è uno strumento strategico. Il problema che si può risolvere è quello relativo ai contenuti intercettati che non riguardano le indagini, che non sono rilevanti per le indagini, ma riguardano la vita privata di terzi o addirittura anche la vita privata dell'indagato. Non è che solo perché è indagato tutta la sua vita deve essere passata alla GX. Ricordiamo tutti gli SMS che sono diventati un po' scuola in questo durante le inchieste sulle scalate bancarie, e si raccontavano quei reati sui giornali, finirono gli SMS privati con dichiarazioni d'amore tra Ricucci e Anna Falchi. Allude anche a questo? Eh sì, esatto, proprio a questo faccio riferimento. Sono cose che sicuramente non avevano riferimento alle indagini. Ma la soluzione qual è? Una norma che in qualche modo affidi a chi? Ai procuratori il compito di selezionare le intercettazioni, la famosa udienza filtro? Purtroppo nell'attuale sistema tutte le parti hanno diritto all'integralità dei contenuti delle intercettazioni. A questo punto si moltiplica il numero delle persone che hanno in mano questi supporti che contengono tutte le intercettazioni. Quello che si propone, il PM all'inizio fa una selezione e dice: queste sono le intercettazioni rilevanti, e queste vengono subito messe nelle mani dei difensori. Le altre non verranno consegnate ai difensori, che però potranno ascoltarle, senza però farsene una copia. A questo punto si sa che le intercettazioni ce l'ha in mano soltanto la polizia giudiziaria e il pubblico ministero. Se se per caso ci fosse una fuga di notizie sapremmo con chi andarcela a prendere. E da sempre, fin dall'era classica, gli uomini di legge hanno poi anche fatto le leggi, come ci racconta, come sempre a questo punto, Giorgio Giaranò, professore all'Università di Trento e voce delle nostre mitiche storiacce. Mitiche storiacce. È passato dalle aule del tribunale alla politica. Volendo attualizzare, potremmo raccontare così la carriera di Marco Tullio Cicerone, che nel 70 a.C. sostiene l'accusa contro il governatore di Sicilia, Verre, facendolo condannare come corrotto, e 5 anni dopo si fa eleggere console. Ma il mondo antico in realtà era molto diverso dal nostro. Nell'Atene di Pericle, per esempio, la giustizia era amministrata da tribunali popolari con giudici estratti a sorte. Per gli aristocratici, i tribunali popolari dimostravano che la democrazia era un regime perverso. Possiamo davvero dare in mano l'amministrazione della giustizia a una folla di popolani incompetenti? Il poeta Aristofane, nella sua commedia Le Vespe, prendeva in giro questo strapotere dei giudici popolari, mettendo in scena un vecchio fanatico di processi che proclamava: che felicità, che fortuna essere un giudice. Non dobbiamo rendere conto a nessuno, nessun potere sta al pari del nostro. Non è grande la mia potenza, grande come quella di Zeus. Questo vecchio ha un figlio che cerca invano di far passare al padre la mania per i processi. Lo chiude in casa, ma il vecchio scappa dal camino. Alla fine gli organizza un processo casalingo per farlo star buono. Gli fa giudicare un cane accusato di aver rubato un pezzo di formaggio. Insomma, la prossima volta che sentirete un politico discutere dei problemi della giustizia, spegnete la TV e leggete Aristofane. Almeno vi divertirete. E voi cosa pensate dei magistrati in politica? Dovrebbe essere loro vietato? Se vi va, scriveteci sulla pagina Facebook di Storiacce, oppure su Twitter ci trovate all'account Raf Calandra. Per riascoltare questa, come tutte le altre puntate, il sito è radio24.it. Ciao a tutti, da Raffaella Calandra.